Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qui, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri come facciamo settimanalmente. Ciao Matteo, come stai? Ciao Fede, bene, bene, grazie. Ma poi diciamolo, dai, finalmente, questa per alcuni è la prima settimana di vera libertà. Perché la maturità è una liberazione, non solo per molti ragazzi, ma anche per i loro padri e le loro madri. Insomma, è una liberazione la sensazione di avere finalmente concluso un percorso. Una maturità bizzarra, ne abbiamo parlato tantissimo nella nostra notte prima degli esami, anche con ragazze e ragazze. Un anno strano, una maturità strana, però hai ragione, quella che non è cambiata è proprio questa idea di libertà. E l'idea anche che, insomma, la maturità poi la raggiungi a volte con un esame, a volte la raggiungi mai, come ci ha detto Guccini proprio durante la notte prima degli esami. Altre volte ancora magari la raggiungi a 11 anni. E prendo proprio esempio da questo biglietto che ha girato tantissimo in rete, no? Un biglietto lasciato da un bambino di 11 anni con firma e banconota, in cui diceva: buongiorno, mi scusi per la pianta, l'ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio, ecco 5 euro per il danno. Cioè, è bellissimo, capito? Cioè, il senso del bene comune, il senso di aver comunque danneggiato qualcosa di non suo, il senso che questa cosa poteva essere tenuta nascosta, invece lui l'ha voluta palesare e anche voluto riparare il danno. E questa storia è stata raccontata da Giovanni Grandi, che è professore di filosofia morale all'Università di Trieste presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, è anche un attivista dell'associazione Parole Ostili, quindi il peso delle parole, il peso della comunicazione, ed è qua con noi. Ciao Giovanni, buona domenica. Buona domenica a voi, Matteo, Federico. E credo che, insomma, che sia stato un vicino ti ha dato questo biglietto, e penso che da professore, da appunto attivista, ma soprattutto da padre, ti si sia aperto un mondo. Sì, assolutamente. Sono quelle cose che rischiano alle volte di rimanere nascoste, e chissà quante ce ne sono per il paese, ecco. Però ogni tanto si accendono queste luci e appunto abbiamo trovato il vicino, voleva sapere se conoscessimo il firmatario del biglietto, no? Con molto stupore abbiamo detto sì, lo conosciamo, e quindi abbiamo indagato un po' e abbiamo ricostruito questa piccola parabola di vita buona, ecco, che ha circolato in maniera incredibile sui social un po' per il paese. Giovanni, guarda, c'era un famoso insegnante, si chiamava Randy Pausch, che diceva che delle buone scuse sono composte di solito da tre parti: mi dispiace, è colpa mia e cosa posso fare per rimediare. E questo biglietto in un certo senso sembra il paradigma, no, di questo suggerimento. Come possiamo fare noi padri, noi genitori, per educare i nostri figli a questo genere di bella responsabilità? Sì, senz'altro, direi che è proprio da manuale, secondo quello che hai detto, questo bigliettino. Ma direi che dietro sicuramente c'è il lavoro della famiglia, che è una famiglia che si è preoccupata da sempre di far fare buone esperienze formative ai figli. E in questo senso, ecco, c'è una preparazione lunga da quando si piccoli piccoli, anche se appunto il nostro protagonista ha 11 anni, quasi 12, quindi insomma ha un'età già in cui comprende molto bene le cose. Però ecco, sicuramente c'è un tempo di preparazione, ed è un tempo che purtroppo tante volte per noi adulti poi si ferma, pensando che non dobbiamo coltivare nulla dal punto di vista morale, e così finisce che magari poi quando reincontriamo queste cose fatte dai bambini ci riempiamo di meraviglie, forse anche un po' di nostalgia per delle cose che vorremmo poter essere in grado di fare tra noi adulti. Tra l'altro, nel tweet dove appunto hai raccontato questa storia, tu concludi dicendo che appunto al prossimo corso di etica pubblica partirai da qui. Che, no, che è anche bizzarro, no? Bisogna ripartire dai bambini per ricordare cosa sia l'etica pubblica. Sì, proprio sì, perché hanno una spontaneità che, ripeto, però è anche frutto di educazione. In questo padri e madri sono assolutamente essenziali, ma poi anche il contesto. Aggiungo questo, che in realtà erano anche in tre, quindi anche il contesto degli amici l'ha supportato in questa iniziativa, quindi non è indifferente il fatto di avere accanto anche dei pari che condividono un po' lo stesso tipo di linea. E credo che sia bello anche ripartire proprio dal punto di vista accademico, cioè essenzializzare le cose ed estrarre da questi messaggi molto semplici, molto intuitivi, però grandi lezioni. Qui ce ne sono tante, c'è la lezione ovviamente della responsabilità, del metterci la faccia, come avete detto, ma dico anche dell'essere sensibili più al bene comune, alle cose degli altri. E quindi sentire, questo appunto il protagonista ce l'ha detto, sentiva che poteva essere importante per l'altra persona questa pianta, e quindi ha avvertito la cura che un altro ci mette nelle cose, e a quella cura ha provato a rispondere con il suo gesto. Credo che questo sia qualcosa su cui merita riflettere più approfonditamente. Ma anche la responsabilità delle nostre parole, no? Oggi, se ci penso, i principali canali di odio, a volte anche di reazioni molto violente, sono spesso i social. Anche qui forse possiamo aiutare, no, i nostri figli a sviluppare la consapevolezza che in luoghi in cui gli altri ci vedono letteralmente solo per l'uso che facciamo delle nostre parole, le parole sono particolarmente importanti perché siamo noi. Sì, esattamente. Questo appunto, conosci bene il manifesto della comunicazione non ostile e le parole ci rappresentano. Questa è una cosa su cui puntiamo molto, proprio perché dicono quello a cui siamo abituati, dicono le nostre abitudini sociali, le nostre abitudini morali. Quindi curare il linguaggio è importante, ma dobbiamo ricordarci che il linguaggio fluisce da un'anima sostanzialmente. Allora è molto bello trovare queste anime ancora pulite per tanti versi, che comunque incontrano situazioni di male, situazioni anche difficili, ma che riescono a condensare in poche parole qualcosa di molto bello, in cui ecco, sembra che ogni piccolo passaggio sia veramente curato. C'è questo piccolo episodio dell'accidentalmente, che è questo bellissimo Verbio che è stato suggerito dagli amici proprio per sottolineare la non intenzionalità del fatto, no? Ah, fantastico. Giovanni, prima di salutarci, guarda, mi collego ancora al manifesto della comunicazione non ostile, paroleostili.it, per chi ancora non lo conoscesse. Io, tra l'altro, insomma, inutile nasconderlo, ci ho lavorato molto anche per tradurlo per le ragazze e per i ragazzi. Ti chiedo questo, però: è un manifesto che secondo te a noi padri può dare qualcosa per pulire la comunicazione con i nostri figli? Perché uno pensa magari sempre alla comunicazione ufficiale, alla comunicazione istituzionale, ma poi c'è anche la comunicazione informale, no? Credo che molti di questi punti un padre li debba fare propri, proprio per torno a utilizzare questa parola, pulire la comunicazione nel rapporto in famiglia. Credo, guarda, proprio di sì, perché come sai bene, il manifesto è costruito in prima persona, quindi presenta non dei doveri, ma presenta dei suggerimenti, e quindi ha questa veste molto propositiva, molto fresca anche. È un linguaggio che per i ragazzi è importante poter sentire, ed è importantissimo sentirlo dai genitori, dai padri senz'altro, proprio anche per la figura che rappresentano. Sentire che un adulto che alle volte appunto incarna la forza, che incarna la decisione, alle volte anche la ruvidità, è capace però di insegnare a usare bene le parole, a curarle, a prendersene cura, a tornirle, questo credo sia un insegnamento che può rimanere, ed è sicuramente una cosa che il manifesto può sostenere, può essere di aiuto per questo, quindi assolutamente sì. Paroleostili.it, giovannigrandi.it invece per chi volesse conoscere meglio appunto Giovanni, che è stato qua con noi. Ciao Giovanni, grazie, buona domenica ancora. Ciao, buona domenica. Ciao a voi ancora, grazie per l'ospitalità. Il traffico poi ancora qua con i padri. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Padri Eterni. Padri eterni, quante volte Matteo abbiamo parlato di nuovi padri, di vecchi padri, di padri che sono cambiati, di padri che si spera che siano cambiati, no? Se esiste un'evoluzione del padre, ce lo siamo chiesti tante volte. Sì, esiste per fortuna, ed è un'evoluzione che va a cambiare anche, no, in un certo senso, gli equilibri familiari a cui siamo abituati, quelli chiamati comunemente tradizionali, ecco, però è un cambiamento indispensabile, come abbiamo detto molte volte, e quindi lo salutiamo con gioia. Andiamo a scoprire come sono cambiati questi padri, ma anche in un contesto di cambiamento, di evoluzione delle famiglie. Lo facciamo con un'eccellenza. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Anna Oliviero Ferraris, psicologa, psicoterapeuta, docente di psicologia dello sviluppo all'Università della Sapienza di Roma, che ha appena pubblicato un libro per Bollati Boringhieri, che ha un titolo sintetico ma efficace e che dice tutto: famiglia. Ciao Anna, benvenuta ai Padri Eterni. Grazie. È già il titolo, del nostro programma, no? Che dà questa sorta di eternità ai padri. Non so se può essere un ultimo capitolo del tuo libro. Ci sarà sempre il padre, no? Sì, il padre sì, però ovviamente la situazione, gli equilibri all'interno della famiglia sono molto cambiati, tant'è che uno dei capitoli finali del mio libro è chi è il leader, cioè, questa domanda, chi è il leader in famiglia, e secondo me è sempre di più la madre, cioè la quale è quella che organizza poi tutta la giornata dei figli, è quella che ha in mente, insomma, la scansione di tutte le attività che deve svolgere lei sul lavoro, a casa, e che devono svolgere i figli e anche il marito. Il marito dà una mano, può dare una mano, non tutti la danno, ma diciamo questi nuovi padri sì, si sentono responsabilizzati, danno una mano. Però nella maggior parte dei casi, adesso è ovvio che non si può generalizzare, ma nella maggior parte dei casi diciamo sopperiscono, cioè possono fare quello che viene richiesto, ecco. Però chi ha in mente tutta la giornata è la madre. Poi il padre, che ne so, può portare il bambino a ginnastica oppure dal pediatra, può accompagnarlo a scuola, ma questo sempre su richiesta e su indicazione della madre. Questa è un po' la situazione attuale in Italia, da noi insomma, dove si è convinti che ormai la famiglia, i due genitori hanno un ruolo simmetrico, cioè non più complementare come una volta, ma simmetrico, quindi entrambi dovrebbero svolgere le stesse mansioni dentro casa. E questo si verifica però più facilmente in certi paesi del nord, dove tra l'altro sono previsti congedi per i padri molto più lunghi che da noi, e meno da noi, dove siamo così ai primi passi, ecco. Anna, sì. Mi scusi se la interrompo, no, ma perché, appunto, questo è un punto che mi sembra importante, no? Perché ancora oggi i padri vengono visti come delle persone che danno una mano? Cioè, perché laddove i padri intervengono in maniera più attiva nella vita familiare e domestica, come del resto si richiede, no? Si richiede a gran voce da parte delle compagne o delle mogli, si hanno poi in alcuni casi dei problemi quando i padri provano a entrare in questo territorio dell'affettività, di una maggiore presenza, quasi come fossero degli intrusi. È solo un problema di modello culturale o c'è di più? No, questo è un modello culturale, cioè era molto diffuso prima, insomma, cioè i padri venivano un po' allontanati dai figli piccoli perché si riteneva che fosse un affare di donne, ecco, l'allattamento, le prime cure, quindi i primi anni, eccetera. Quindi molti padri si sentivano un po' emarginati, a volte addirittura gelosi perché non potevano avere accesso ai bambini piccoli. Adesso le cose sono cambiate, solo che questi cambiamenti non avvengono all'improvviso, cioè richiedono del tempo, cioè chi si adegua subito comprende quali sono le necessità e i cambiamenti sopravvenuti nella società e famiglia, e c'è invece chi va avanti ancora coi vecchi modelli, sia lui che lei naturalmente, insomma si porta avanti quello a cui sono stati abituati nella loro famiglia d'origine. Ecco, c'è una inerzia, diciamo, per cui siamo indotti a comportarci come abbiamo visto fare dai nostri genitori. Magari a livello così consapevole, razionale, siamo convinti, insomma, di una parità totale o quasi tra padre e madre. Poi magari nei fatti, siccome c'è stato un apprendimento diverso che fa parte anche del nostro inconscio, alla fine ci portiamo avanti dei retaggi. Insomma, c'è ancora molta strada da fare per liberarsi da questi retaggi, strada culturale, ma anche strada poi nelle azioni, no? Nella quotidianità. Anna, per chiudere, nel libro affronti anche ovviamente l'attualità, parli di questo dilemma del porcospino, di cosa si tratta? Il dilemma del porcospino è un racconto molto interessante di un filosofo che si chiama Schopenhauer, sì. Il quale racconta come una famiglia di porcospini nella tana fredda cerca di riscaldarsi mettendosi tutti vicino, no? Poi però, siccome hanno gli aculei e hanno queste spine, si fanno male se stanno troppo vicino e quindi cercano di si allontanano. Però se si allontanano troppo sentono di nuovo freddo e quindi c'è tutta una sorta di danza all'interno della famiglia fatta di avvicinamenti e allontanamenti, perché la famiglia è importantissima, protegge, dà affetto, dà identità nei primi tempi ai bambini, eccetera, dà le linee guida anche su come comportarsi all'esterno, a scuola, nella società e così via. Però se diventa troppo controllante, se alla fine può diventare anche asfissiante, cioè se, soprattutto se si ripiega troppo su se stessa, se pensa di essere autosufficiente. Ecco, la famiglia non è una monade autosufficiente, la famiglia per vivere e per emanciparsi, per crescere, eccetera, ha bisogno anche dell'ambiente esterno, ha bisogno della società, ha bisogno della scuola, ha bisogno di altre famiglie, insomma, quindi ripiegarsi troppo su se stesse alla fine danneggia i membri della famiglia. Anna, e questo è stato uno dei problemi, per esempio, di questo lockdown. Questo lockdown, sì, infatti l'abbiamo visto, abbiamo parlato con tanti padri che comunque con altre parole però ci hanno raccontato questa realtà. Grazie davvero Anna, ricordiamo Famiglia, Bollati Boringhieri, il nuovo libro di Anna Oliviero Ferraris, che è stata qua con noi oggi ai Padri Eterni. Buona domenica ancora Anna. Buona domenica a tutti. Grazie. Matteo, andiamo a teatro adesso, sei pronto? Prontissimo Fede. Ma tra l'altro guarda, questa idea di cui parleremo la trovo un'idea meravigliosa. Non anticipo niente, ma è veramente una cosa commovente. Ma infatti intanto cogliamo veramente una manciata di secondi di solidarietà a tutti gli amici artisti, ma anche a chi lavora dietro le quinte del teatro, dello spettacolo, perché sono mesi ormai veramente veramente difficili. Adesso ci sono già delle timide riaperture e poi ci sono le idee, c'è la creatività che è stata messa in campo alla grande, e l'esempio che vi portiamo adesso va proprio in questa direzione. Lui è Corrado Tedeschi, attore, insomma uomo di spettacolo, e ha avuto un'idea semplice ma geniale, cioè se la gente non può venire a teatro vado io a casa dalla gente. Ciao Corrado. Buongiorno a tutti. Sì. Guarda cosa bisogna inventarsi. Però io faccio una diretta su Facebook, no? Uh-huh. E devo dire molto seguita. Allora una sera per caso ho detto ma finirà che verrò a casa vostra a fare lo spettacolo, e tanti hanno risposto ma che bella idea, ma che bello. Allora a quel punto siamo partiti con un minimo di organizzazione e abbiamo tantissime richieste, quindi insomma è una cosa che piace molto. Lo spettacolo si intitola Partenza in salita, in scena con te c'è tua figlia, che credo che anche questo sia una prima volta, di Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi, su un palco che non c'è, perché appunto siete in salotto, in una cucina o in un corridoio. Per adesso ci fermiamo un attimo, il tempo della pubblicità e del meteo, e poi torniamo immediatamente da te. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it è il nostro indirizzo, il nostro sito da dove poi potrete scaricare il podcast e riascoltare tutta la puntata. Potete anche scriverci padrieterni@radio24.it, e tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, dove mettiamo anche i link di tutti gli argomenti che tocchiamo, come per esempio la locandina di questo spettacolo Partenza in salita. Non cercatelo nei teatri, cercatelo nelle case, con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi. Corrado, Sì, ma guarda, questa cosa qua in fondo no, è anche una nuova idea di cultura, no? Cioè l'idea che l'arte sia prima di tutto un modello relazionale umano, no? Quel punto lì che tu ti relazioni con un teatro di 500 persone o con 5 persone, cambiano i numeri ma la sostanza non cambia. Come ti è venuta questa idea assolutamente, veramente geniale, come diceva Federico in apertura? Allora, fermo restando che il teatro va visto a teatro, per cui bisogna andare a teatro, e questa, la normalità è quella. Lo spettacolo con Camilla ha già fatto Roma e Milano, insomma è uno spettacolo che ha avuto un grande successo. Però, data la struttura dello spettacolo, che è abbastanza snella, siamo in due, la scenografia è molto limitata, eccetera, è uno spettacolo di parola, mm-hmm, più che altro, è molto divertente. L'idea era quella di non stare, perché voglio dire, lamentarsi va bene, eccetera, ma lamentarsi senza provare a fare qualcosa è una cosa che non mi appartiene. Allora mi è venuta questa idea qua. E quando c'è un attore e c'è una persona di pubblico, quello già è teatro. Quindi non, hai ragione tu, 500 persone o 10 non cambia molto. È questa urgenza nostra di tornare a fare il nostro mestiere. Per cui in questo caso si va oltre, nel senso che si va a casa delle persone, si fa lo spettacolo e poi si mangia tutti insieme. Bello. Che mi sembra un modo veramente stupendo di relazionarsi con le persone, di avere di ricominciare a conoscersi, a non aver paura dell'ignoto, perché poi tutto sommato io vado a casa di persone che non conosco, quindi insomma tutto sommato, c'è anche un minimo di mistero, però è tutto molto bello e a me piace tantissimo questa idea. Ricordiamo Rara Produzioni, per chi volesse le informazioni trovate in Rara rete, Produzione, esatto, come contattarvi, eccetera, eccetera, esatto. Ma Corrado, invece, com'è che sia teatro, che sia appunto un tinello, com'è essere in scena con la propria figlia? Ecco, no, io vi ringrazio per aver nominato Partenza in Salita, che è uno spettacolo al quale io tengo molto e che girerà anche quest'inverno nei teatri, quando capiremo esattamente cosa succederà, perché vedo i calciatori che si abbracciano, si baciano, sputano e fanno tutto quello che devono fare, non capisco perché in teatro debba esserci una limitazione così stringente. Ecco. È bellissimo essere con mia figlia, è il nostro rapporto messo in scena, è un rapporto abbastanza teatrale quello con mia figlia, pieno di conflitti naturalmente, padre figlia, pieno di conflitti, ma anche condito di un amore gigantesco, immenso, ed è un testo divertentissimo scritto da Gianni Clementi, che è un grosso commediografo romano. È molto molto divertente, con un finale amaro, ma tutto ciò che avviene in scena è vero. Okay. Tutto ciò che avviene è vero, quindi siamo io e mia figlia e siamo noi due che ci mettiamo in scena, compreso il finale, ripeto, un po' a sorpresa e anche un po' che lascia gli spettatori un po' però commossi. Però lo dimentichi in scena che è tua figlia, o comunque di fianco a te hai una collega, ma comunque questa collega è sempre anche tua figlia. Beh, insomma, non posso negare, non posso far finta che sia mia figlia, anche se Camilla, ecco, io detesto il nepotismo, no? Però in questo caso a me non serviva un'attrice, mi serviva proprio mia figlia, dovevo rappresentare il rapporto con mia figlia, e Gianni Clementi, che è l'autore, ci conosce, sa che quando siamo in... Sembriamo Sandra e Raimondo quando andiamo in giro io e mia figlia, e quindi abbiamo riproposto questo schema veramente molto molto divertente. Poi Camilla ha dei tempi comici straordinari, e dato che è una cosa a due deve avere un ritmo forsennato, e lei è bravissima in questo. Quindi insomma, noi abbiamo fatto già un numero in una casa, abbiamo fatto ed ha avuto un successo strepitoso, strepitoso veramente. Corrado, senti, tu hai vissuto nella tua vita di artista anche l'esperienza di un successo televisivo incredibile. Mi chiedo, dal punto di vista dei tuoi figli, no, come vivevano il tuo successo professionale? Cioè, avevano la sensazione di essere figli di quel Corrado Tedeschi? Influiva sulla qualità del vostro rapporto? Ma io ho cercato sempre di non farlo pesare, di no, però indubbiamente sì. Indubbiamente sì. Loro... cercavano di nasconderla questa cosa, però poi veniva fuori, perché sono stati anni veramente fantastici, come dicevi tu, di enorme popolarità e cose, però mi sono sempre molto preso in giro io di fronte ai miei figli, e questa secondo me l'ironia è un'arma vincente. Sì, perché mette il giusto distacco e mette a posto le cose, no? Le ridimensiona assolutamente. Mi sono sempre preso in giro io e mi sono fatto prendere in giro con grande piacere dai miei figli, per cui insomma non... Da quel punto di vista credo che non abbia. Un figlio ha preso tutta un'altra strada, invece Camilla, che è cresciuta nelle quinte dei teatri, è rimasta presa dal fascino di questo lavoro che se ti prende non ti lascia più. Grazie davvero Corrado per essere stato qua con noi, complimenti davvero per l'idea, a te e a tua figlia Camilla. Grazie a voi, buona domenica. Ci vediamo a casa vostra. Ti aspettiamo. ciao. Queen of the jungle, but don't live in a bungle. Wear my clothes, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east. They wants to make me his feast, 'cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting fowl to dot to dawn. Leaving cheers in everybody's lawn. Spinning fear when I sing the lazy yarn. Matteo, adesso andiamo a videogiocare, no? Allora, il lockdown, la quarantena ci hanno anche portato questa novità nelle famiglie italiane, che si è passati da non stare sempre davanti a quel computer a stai sempre davanti a quel computer, no? Perché c'erano le videolezioni, c'erano i compiti. In verità c'è anche tutto il mondo dei videogiochi che tante volte abbiamo toccato qui ai Padri Eterni, proprio perché crediamo nelle potenzialità anche di incontro generazionale del videogioco. Tu videogiochi molto, Matteo? No, io devo dire non videogioco affatto, ma temo di essere un caso particolare. Le mie figlie però videogiocano con i tablet, hanno tutti i loro giochini, tutte le loro cose, insomma da Fortnite ad altre, quindi cominciano ad essere appassionate. Allora guarda, c'è un'iniziativa che è bellissima, è un portale che si chiama tutto sui videogiochi.it, è il sito del primo portale nazionale per far conoscere i videogiochi alle famiglie italiane, perché tanti pregiudizi più delle volte sono proprio dati dalla non conoscenza. È un portale promosso da IIDEA, che è l'associazione editori sviluppatori videogiochi italiani, e con noi c'è Marco Saletta, che è proprio presidente dell'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi ed è anche general manager di Sony Interactive. Ciao Marco, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, l'idea è proprio questa, no? Far conoscere alle famiglie le potenzialità, credo, dei videogiochi, perché i videogiochi non sono brutti, sporchi e cattivi. Sì, è corretto. L'idea è proprio quella di far conoscere i videogiochi con una prospettiva che sia formativa e informativa per tutti quei genitori che ancora oggi temono, secondo noi, impropriamente, che i videogiochi siano un po' sporchi, brutti e cattivi. Lo stimolo alla creazione del portale nasce da una serie di considerazioni fatte anche insieme ad Agicom, insieme a tutti gli stakeholder che guardano al mondo dei videogiochi con grandissimo interesse, perché la verità è che in Italia ci sono circa 17 milioni di videogiocatori, quindi 17 milioni di persone che tutti i giorni, da mobile a PC a console, videogiocano. E come idea, come associazione che raggruppa tutti i publisher, tutti gli sviluppatori italiani, tutti i membri dell'eSport, abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento di informare e formare. E infatti, perché non è solo un catalogo di titoli, giusto? No, assolutamente, è un sito di informazione, per tutti coloro che si siedono con dei minori davanti a un PC, davanti a una console, anche davanti a un gioco mobile, e decidono di giocare insieme, perché l'elemento più importante per capire il videogioco è provarlo, fare l'esperienza con il videogioco. Il videogioco per la generazione dei 10-20 anni oggi, che sono più o meno tutti nativi digitali, è un dato di fatto. Per chi oggi, come molti genitori, si arriva un po' tardi, no? Anche alla paternità, il videogioco forse non ci sono mai entrati, non lo hanno mai capito, e risulta ancora un medium piuttosto ostico. Il passaggio che noi vogliamo fare, culturale, per il paese, nell'interesse del paese, perché ci sono 17 milioni di persone che giocano, è proprio quello di informare. Ci saranno recensioni con gli esperti, ci saranno opinioni degli esperti, ci sarà tutta una base di informazioni, di riferimenti anche culturali per aiutare il genitore ad orientarsi all'interno del mondo dei videogiochi. Marco, ma il problema no, spesso è questo, che chi esercita una funzione educativa non sempre è in grado di comprendere la passione dei propri figli e di sfruttare quindi appieno le potenzialità che i videogiochi offrono. Come tu dicevi e come diceva Federico in apertura, giocare insieme effettivamente può essere una soluzione per attivare uno di quei ponti generazionali di cui parliamo spesso, cioè non avere più timore o paura dei videogiochi, ma usarli per riuscire a comunicare meglio con i propri figli? Io sì, sono d'accordo, credo che sia l'unica via in realtà, no? Come sempre poi la formazione e l'educazione che si dà ai propri figli è anche conseguenza del tempo che gli si dedica. Al videogioco gli si dedica tempo, lasciare un figlio da solo davanti a un videogioco alla fine è distorsivo anche del modello educativo che si vuole dare al videogioco, al proprio figlio. Come genitore noi abbiamo il dovere di stare vicino ai nostri figli. Affiancarlo in un'esperienza di videogioco significa aiutarlo a capire e aiutare noi genitori a capire, perché poi detto molto francamente, il videogioco non è brutto sporchetto, ci sono tantissimi videogiochi che aiutano la creatività, tantissimi videogiochi che aiutano a socializzare. Oggi può far paura a un genitore, ma la socializzazione dei nostri adolescenti passa anche attraverso i videogiochi. Oggi il mobile, certo, è per definizione un modello di socializzazione per gli adolescenti, anche il videogioco sta diventando questo, e non aver paura di far socializzare il proprio figlio con il videogioco passa solo attraverso la cultura, l'informazione, il sapere che cosa il videogioco può dare ai nostri figli. Tutto sui videogiochi.it, vi segnalo ancora il portale. Poi Marco, insomma, il tema è molto bello, è molto attuale, credo che ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate per approfondire l'argomento. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a tutti e buona domenica. Noi ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Padri Eterni. Il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Il gigante e la bambina, canta Lucio Dalla, non c'è canzone migliore per accogliere il prossimo ospite. È autrice di un libro intitolato Un gigante per papà, e poi anche figlia, perché è figlia di Bud Spencer. Diamo il benvenuto a Cristiana Pedersoli. Ciao Cristiana, buona domenica. Ciao, buona domenica Federico e Matteo. Grazie per essere con noi. Che bella questa parola, no? La parola gigante. Cosa vuol dire usare gigante come aggettivo per il proprio padre? Beh, perché lui era gigante in tutto, non solo nelle dimensioni, che era grande, aveva delle mani enormi, i piedi numero 47, ma poi era un uomo di un grande cuore, di grandi sentimenti e di grandi progetti e sogni. Cristiana, senti, io vorrei tanto chiederti che cosa ha significato per te essere figlia di una leggenda del cinema come tuo padre, nel senso che immagino che quantomeno a scuola nessuno ti abbia mai importunata, mettiamola così. Ma invece preferirei chiederti, cioè, che padre era? Riusciva a essere un padre presente nonostante i numerosi impegni cinematografici che suppongo lo tenevano lontano da casa? Guarda, inizialmente sicuramente non è stato un classico padre, come si può immaginare nelle normali famiglie. È stato molto assente perché appunto faceva un lavoro che richiedeva la sua presenza altrove. E quindi poi però riuscivo a concentrare tutto il suo affetto, tutta la sua attenzione nei momenti che passava con noi quando era a casa. Poi col tempo ci siamo abituati, organizzati, anche noi lo seguiamo sui set e anche portavamo degli insegnanti con noi, quindi insomma siamo riusciti poi a organizzarci e a stare vicini ad essere una famiglia unita. E lui insomma ci teneva moltissimo a questo. Cristiano, ma mi chiedevo, non sei mai stata in quanto figlia gelosa di tuo padre, che era comunque amato dai tuoi compagni di classe, dai tuoi amici, immagino. Cioè, c'erano cose che comunque sapevi che invece erano solo tue? Hai dei ricordi solo tuoi? Allora, intanto mi chiedono spesso come è stato vivere all'ombra di Bud Spencer. Io direi più che altro come è stato vivere alla luce di Bud Spencer, perché non c'erano ombre. No, non sono mai stata gelosa di lui, anzi, mi faceva piacere comunque anche quando i miei compagni, quando ho scoperto che mio padre era famoso, perché per me era soltanto mio padre che lavorava e quindi non c'era nulla di strano. Poi ho capito che era diventato famoso quando a scuola mi chiedevano: ma tu sei la figlia di Bud Spencer, ma com'è tuo padre? Allora lì ho capito che per qualcun altro lui era importante, ma ero sempre orgogliosa, contenta. Poi i bambini sono distratti da mille cose, quindi non mi ci sono mai soffermata. Soltanto una volta mi ricordo invece mio fratello che quando mio padre andò alla Fiat a trovare gli operai della Fiat e ci fu una folla di gente intorno a lui, di tutti loro che gli chiedevano gli autografi, che mio fratello si innervosì molto, si ingelosì e cominciò a prendere a pugni sulle gambe mio padre. Cristiana, nel tuo libro, che è un libro molto, molto sincero, molto intenso, mi verrebbe da dire, nella lettera che lo introduce c'è un passaggio molto bello e molto forte, quando dici che tuo padre, fra gli altri numerosi insegnamenti, ti ha insegnato anche a fare del dolore il tuo maestro o uno dei tuoi maestri. Mi sembra un insegnamento molto importante tra padre e figlia. Sei riuscita a metterlo in pratica? Bella domanda, nel senso che ci sono tanti insegnamenti di mio padre che sto cercando di mettere in atto, non è facile. E lui, quello, uno degli insegnamenti più grandi che mi ha dato è che la vita va accettata nel bene e nel male con tutto ciò che ti capita, di buono ma anche di cattivo, e che la cosa principale è rialzarsi, la cosa principale è non piangersi addosso e avere quella resilienza che ti permette di superare le cose. Lui lo ha sempre fatto, è stato bravissimo per tutta la sua vita e per questo che poi la vita lo ha ripagato. Io ci provo, ogni tanto ci riesco, ogni tanto no, magari col tempo. E ricordandomi sempre, avendo presente come lui ha trascorso la sua vita, può essere che ci riuscirò appieno. Cristiana, ma ti ha insegnato a dare o a prendere una sberla per finta? Sì, un pochino di mimica ci Sì. faceva capire, ma soprattutto era come doveva essere posizionata la camera da presa, quello ti rendeva l'idea, no? Ok. Del meccanismo che non si vedeva, che il cacciotto non arrivava se la macchina presa era messa in un punto piuttosto che in un altro. Certo. Un'ultima domanda prima di salutarti, questo proprio lo chiedo a nome di noi padri, se ci fosse un padre, un genitore che volesse far conoscere appunto Bud Spencer e Terence Hill al proprio figlio, da quale film sarebbe bene partire, secondo te? Oppure qual è il tuo preferito che consiglieresti di rivedere insieme Padri e Figli? Ma diciamo, allora, il mio preferito è sicuramente Piedone, perché rappresenta mio padre in toto, perché aveva appunto quell'umiltà, quella semplicità che ci sono nel personaggio del commissario Rizzo, che era papà, e c'era quella napoletanità che era sua, insomma, era proprio se stesso sul set in Piedone, il senso della giustizia, la difesa dei deboli. Però forse non è il primo film che farei vedere a un bambino, non lo so, forse altrimenti ci arrabbiamo, quelli un po' più divertenti. Papà aveva il dono di sognare, di far sognare gli altri, e soprattutto quello di far sorridere i bambini e quello di riunire le famiglie e regalargli la serenità. Sicuramente ha preso anche a pochi la tristezza, e tutti questi suoi film sono dei buoni inizi per un bambino, per cominciare. No, questo di prendere a cazzotti la tristezza è una bellissima immagine. Grazie davvero, Cristiana, e complimenti. Ricordiamo per Giunti Editore il libro Un gigante per papà. Ciao e buona domenica. Grazie a voi, Federico, Matteo, un abbraccio. Grazie. Ciao. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Peter Bescapè, oggi alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata. Il grazie più grande, come sempre, però va a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it è il sito da dove poter poi scaricare il podcast. Padri Eterni @radio24.it se volete contattarci. Ciao Matteo, buona giornata e buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. L'appuntamento, come sempre, con i Padri Eterni è a domenica prossima alle 11. Ciao!